Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot. Io la casa a Sanremo, non vedo come possono resistere le panne qua. Queste palme arrivano dai nostri vivai in Brianza. Perché molti dicono, ma qui muoiono queste palme. Non è assolutamente vero, perché questa pianta, questa varietà di palma qua ormai è quasi autoctona in Lombardia, perché ce ne sono dappertutto. Lei metterebbe, che so, un igloo in Florida? Così bella. Vi sentite un po' più a casa? Sì, un po'. C'è bella atmosfera così. Io vorrei sapere a chi le dice i taxisti che si devono spostare per parcheggiare i cammelli. E fra un po' diventiamo anche noi Africa. Si dice così, guardi, ma va ci appaierà. Sa che arriveranno anche i banani? E poi qua ci sarà la gente che si arrampica per prendere le banane? Va bene, mangiamo, Ora a me dispiace interrompere Bob Marley, cioè, non so se vi rendete conto. Siamo un paese in cui da due giorni si discute per delle splendide palme. Io adoro le palme, io vivrei per le palme, io mi metterei una palma nel letto. Le adoro come piante. Si discute da due giorni per quattro palme davanti al Duomo. Non ho capito niente. Caro De Luca, io ieri l'ho detto su Twitter e lo ribadisco. Tifo perché il caro leader Kim Jong-un ci getti un bel missilone termonucleare facendoci scomparire così l'Italia con le sue palme, i suoi quattro banani davanti al Duomo e tutte le discussioni annesse. Missili termonucleari. Vai, vai Vincenzo, vai. Right out of Babylon. Bombe atomiche. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it is. Vabbè. Signori, oggi ci sono di quelle notizie sui giornali che, a parte questa delle palme, perché guardate che c'è sui giornali, discussioni di paginate sulla disfida delle palme, i cammelli, l'Africa, gli immigrati, Starbucks, c'è tutto mischiate e viene un bel mischione di discussione. Beh, oggi c'è Berlusconi che annuncia un nuovo lifting. Ho incontrato un professore che ha una tecnica innovativa per ringiovanire il viso. Si sente già in campagna elettorale, Ale. E poi, signori, questa la preservo un attimo perché ho riso molto quando l'ho vista. Intanto voglio salutare uno che vive in mezzo alle palme. Vai a Mondello, ma poi vai a Mondello. Io quando vado a Roma, la prima cosa che cerco sono delle palme per guardare le palme che si stagliano contro il cielo blu. Porcaccia miseria, c'è Vincino, ce le ha, c'ha un palmetto, c'ha Mondello. E due non... palme. Due palme, che bello. Ne avevo tre, me l'ha ammazzata la cosa. Chi? Il pinturicchio rosso, là, come si chiama. Ah, e cos'è? Un pidocchio? Un animale? Quello che ha ucciso tutte le palme. Che del bastardo. Perché poi, no, perché è successo a fine degli anni 90, qualche sì. assessore si comprò un migliaio di palme in... Al Cairo, al e ci portano le palme con il ma stupendo dentro. Le palme, che bello, sì, per risparmiare le comprò con il tetto dentro, così, e questo distrusse tutte le palme del sud, praticamente tutte le palme del sud, vabbè, eccetto due che sono le due palme di Vincino, le famose due palme di Vincino, titolo di libro, ci triturano le palme, cioè capite, cioè siamo. Saluto Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani.it, milanese doc, che pensa ecco. delle palme. Sì, c'è anche la Domenica delle Palme. Sì, la Domenica delle Palme, certo. Ma tu cosa pensi? Dai, avrei detto anche tu la tua. Ma. Sì, e soffriamo oramai di un dibattito continuo e permanente, alimentato sì. dalla grande rete, da Facebook, per cui ci contrapponiamo su tutto. E che dire, è la democrazia bellezza, diciamo così, discutiamo delle palme. Intanto, signori, devo dire che è venerdì, ci sono 7 gradi a Milano, ma le palme stanno benissimo, avete sentito, sono delle palme resistenti, e diteci quanti gradi ci sono da voi, caro Angelo, te ci sono 7 gradi come da me, a Milano, Vincino dove stai? A Mondello? A Roma, quanti gradi ci sono? -3, sei un freddo cane. Ma come -3? Ma che cosa dici? Ma che cosa dici? Allora, su Roma ho trovato la notizia che più mi ha fatto ridere, apriamo il Parlamento perché questa, ragazzi... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Adesso sistemiamo anche Renzi, Prima la Raggi. Allora, la notizia è questa: si è scoperta una terza polizza, questa volta Romeo, perché sei tu Romeo, l'ha fatta quando Raggi era già indagata. E c'è il primo sospetto. Il sospetto è: e se fosse un infiltrato? E questo è il primo sospetto che vi sottopongo, ma la cosa più bella è questa. Pare che la Raggi abbia reagito così, Vincino, senti un po', sai tra i poteri del sindaci che cosa c'è? No. Tra i tanti poteri si è firmare il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, e pare che la Raggi abbia reagito così, non solo lo querelo, ma ho pronto un TSO, un TSO. Però lei lo doveva già querelare da 10 giorni. Vabbè, questo. Vabbè. Però cos'è? Cioè, ma tu te lo vedi se firma un TSO per il signor Romeo Salvatore? Firma sindaco Virginia Raggi. Sì. Poi se ne accorge adesso di questi eventuali problemi psichiatrici. Cioè, sì. Fino ad ora era il suo braccio destro, principale sì. consigliere. Sì. La Raggi continua a fare delle diavolerie incredibili. Forse infiltrato, però forse adesso questo si prospetta come idea. Forse è un infiltrato. Ma l'idea che la Raggi fosse vittima di ambienti politici romani che l'abbiano un po' infiltrata, essa sì, nel Movimento 5 Stelle la sosteniamo da tempo. Sì. E quindi potrebbe esserci questa pista. Ma infiltrato, cioè non so, allora Vincino, tu che te ne intendi, che hai vissuto anni di infiltrati, come si riconosce un infiltrato, per esempio? Quando c'è stato bravo non lo riconosci, infiltrato è. Cioè, si riconosce quello c'ha la maglietta con una striscia. Nel 77 sì. quelli della polizia infiltrati avevano tutti un golfino con una striscia verde là sulla perché e andavano a sparare per le strade. Perché una striscia verde? Perché? Così erano, c'erano le foto di quelli là con la striscia con la si riconoscevano così, andavano a sparare. Senti non iniziare. Quarantini l'ha disegnato perfetto quello là, così con il golfino con la striscia verde che andava a sparare, e quelli si riconoscevano così, dalla striscia verde. Dalla striscia verde, no. E adesso come si riconosce? Cambiarono golfino. adesso no, l'infiltrato bravo devi trovare un altro metodo, assolutamente. Esatto. Potrebbe essere però, un infiltrato, posso però dire una cosa. Secondo me la Raggi è molestata da ambienti milanesi, per lo più, da un tipo che sta in un castello là sopra, là alla Dagoberto Experience, là sopra. E quali sarebbero questi ambienti milanesi? Dillo tu, perché sai, insomma, la querela così te la becchi tu, poi io mi dissocio immediatamente. No, ma io nemmeno lo dico, assolutamente. E basta. Molestata da ambienti milanesi. Un noto comico dentro un castello associato sta là a molestare questa povera ragazza. Vabbè, non so, Perrino, tu hai capito? Vuoi dirlo tu, così la querela arriva a te? Ma no, deve spiegarlo un po' meglio, Vincino. Dacci qualche altro indizio. Vabbè, un comico ha detto castello milanese genovese. Associato. Vuoi comprare azioni della Casaleggio Associati? Ci può fare? Se vuoi comprare azioni della Casaleggio? Sì, vorrei. Non credo che sia una SPA, non so, cioè nel senso... Ma non si può? E non lo so. Come si diventa soci della Casaleggio Associati? Si chiama la Casaleggio Associati e si, vorrei si dice... comprare, non so, il 5%. Il 5%. L'1%. E proponiglielo, lo chiami. Allora, facciamo un appello. Devi scrivere prima un meetup. Ti devi scrivere un meetup, è vero? No, ma prima io non voglio diventare dipendente. No. Io sono contro, no, dipendente. Militante, militante. No, proprietario. È un SRL, ragazzi. Proprietario. E vabbè, chiama Casaleggio e compragliela. Cioè, cosa devi fare? Fagli una proposta economica. Quanto sei pronto a 50 euro? Io voglio buttare giù, 50 euro, ma sei veramente... E anche lo spettacolo di Grillo costa 50 euro, esatto, ti danno un biglietto, ma non in prima fila all'ultimo spettacolo di Grillo. Intanto sentite qui la Raggi arrabbiatissima, giustamente, dopo che ha scoperto la terza polizza, dopo che era indagata. Qui c'è veramente da sospettare che ci sia qualcosa di strano sotto, Allora, ho letto anche questa mattina di questa polizza, chiaramente a questo punto sono io la prima a voler capire cosa sta succedendo per una vicenda che mi vede del tutto estranea. Forse la volevano mettere in mezzo. Pronti di Romeo. Guardi, stiamo lavorando con gli avvocati per capire cosa fare. Raggi di luce. E anche affranta, se raggi di luce, è proprio sempre più... Ma si capisce, sì. Dai, ma qui ha ragione, cioè adesso è una roba appena... Ogni giorno ha la sua pena, no? Arriva, dice, oggi cosa scoprirà che gli hanno... Sì, ma è bello il linguaggio da avvocato, no? Di cui sono strane, hanno... Cioè, come dire, lei si prepara i comunicati proprio con tutta l'esperienza che ha, con uno studio in mano, lo studio, quello Previti fa 230 avvocati, li preparano tutto, parola per parola, e usa sempre un linguaggio preciso, no, proprio da... Vabbè. No, hai notato, Perrino, la frecciatina di Vincino sull'avvocato Previti? Le cose. Che c'entra? No? Sì, vabbè, certo, sin dall'inizio questo... Il migliore studio di Roma, scusami. Ho capito, però insomma, adesso... All'inizio questo sospetto aleggiava. Noi Ciaffari Italiani abbiamo raccontato anche di rapporti con l'estrema destra, di Romeo e di Marra, col mondo di Casa Pound, della destra francese. Ci sono questi legami, sono da precisare, ma esistono. E da sempre si è pensato che quella fosse appunto un'incursione nel Movimento 5 Stelle di persone che non c'entravano. La Raggi potrebbe essere stata, consapevolmente o no, proprio il grimaldello per entrare e demolire questo movimento emergente attraverso una figuraccia a Roma. Intanto io devo far notare che, giusto perché l'ho lanciato, a Cosenza ci sono 5 gradi, a Mondovì 1,9 gradi, poi Daniele mi spiega come li ha misurati. 6 gradi a Vicenza, nel Principato di Correggio 6 gradi. Attenzione, Principato di Correggio. Caro Vincino, devi andare a Mondello? Ci sono in questo momento 9 gradi a Palermo. Stupendo, no. 9 gradi. Devo andare a Mondello. Vabbè. Senti, no, io una cosa voglio capire. Sì. Tu ora come fai a lanciare il traffico? Perché? Per il traffico di influenze, che è una cosa stupenda. Perché sì, attenzione, il papà di Renzi, pensa che non l'ho capito, ma è sempre avanti Vincino. Il papà di Renzi è indagato, adesso partiamo dal figlio, però il papà di Renzi è indagato per traffico di influenze, effettivamente... Che è un reato meraviglioso. È un reato... Potremmo dire che ha una fabbrica di vaccini. Sì, è un reato un po' così, io è la prima volta che scopro di questo tipo di reato. Traffico di influenze. Intanto i problemi li ha anche il figlio, che oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, sembra proprio l'intervista disperata dell'ultimo momento, intervistato da Aldo Cazzullo, 2 pagine sul Corriere a dire non separatevi, state qui, siamo democratici, io sono umile, voglio dire, ne dice, titolo sulla scissione telenovela puntata numero 7892. Oggi è questo il titolo: la scissione è fatta al 95%, caro Perrino, 95%, l'ha detto Bersani. Sì, non si capisce peraltro perché stanno litigando. Se dovessimo spiegarla a uno straniero, i contenuti di questa lite sono assolutamente incomprensibili. È una questione di potere, però. È una questione che dicono è il partito di Renzi ormai, e quindi non ci sentiamo più. Secondo me è il seguito e il regolamento di conti successivo al referendum, dove questa sinistra, questi dissidenti, hanno lavorato contro Renzi, contro il partito, e adesso Renzi vuole appunto restituire pan per focaccia e dire andate fuori dalle balle, perché io devo fare il segretario e devo insomma muovermi con un partito leale. Anche se tutti ora scrivono che la scissione è un dramma, io credo che sia utile che venga fatta, così sciogliamo definitivamente questo. Sono anni ormai che stiamo, l'Italia è ferma all'interno di questo congresso del PD infinito. Non lo so, Vincino, tu hai capito perché litigano? No, assolutamente no. Eppure infatti, non te ne perdi mezzo di direzione del PD. Assolutamente sì, ma non ho capito nulla. Non hai capito nulla. Il potere, le liste, chi Renzi farà le liste elettorali e sarà, non farà prigionieri. È ma quello fanno che le temono. Fanno le primarie. Sì, fanno il congresso. Cioè, tra l'altro Renzi dice... Per le liste. No, fanno ogni città le primarie, chi vince va in lista. Sarà il primo. Non lo so, tutte le liste fanno così. Non lo so. Io so che Renzi giustamente dice ora volevano congresso. Certo. Adesso ho detto ok, congresso e lo scissione. Sì. E quindi effettivamente andare dietro a queste cose è un po' davanti. È pretestuoso. I dissidenti pensano, facendo una lista per conto proprio, di prendere una fetta di potere, di essere autonomi. La domanda poi è: il giorno dopo non devi allearti con Renzi, non siete sinistra? Ma esatto, cioè poi con questa legge elettorale, non so, Vinci, non si capisce niente. Andiamo al traffico. Supponiamo che prendano il 10 come vengono accreditati, no? Dove vanno col 10? Devono fare alleanze e quindi devono tornare all'ovile. Cominciamo con il traffico di influenza. E poi dopo rientriamo, che devo capirci di più. Mamma mia, per fortuna che è San Venerdì! Buongiorno, allora anche Bersani fa parte del club Enrico Stai Sereno. Toglietemi una curiosità, il PD sta facendo la scissione, ma se poi si va alle elezioni faranno una coalizione tutti insieme? Ma allora che cazzo stanno a raccontare? Buongiorno, Editto il Bulgarino, ma quando è che facciamo una bella puntatona? No sulla Raggi, no su scissione, che a te non interessa molto nemmeno a noi, ma sul fatto che tutto il governo ha votato compatto per non indicarci i nomi dei grandi debitori, a dire i grandi truffatori d'Italia. Buona giornata, Lino Bulgarino, un abbraccio forte. Pensate se tutta l'attenzione rivolta su un SMS, una frase, una chat l'avessero rivolta alle banche d'affari che si sono infiltrate, si sono ormai infiltrate nella democrazia. Qua non è più democrazia, è bancocrazia. Ring, ring goes the bell. La bancocrazia, per Dibba. Vedi che, allora, intanto non ho capito perché questo mi chiama Lino Bulgarino, Editto Bulgarino, ma chi è che avrei cacciato? Non lo so. Però Hai visto che l'ascoltatore la pensa come te, Perrino? Sto morendo. Dopo il voto che succede? Prima si scindono e poi si riuniscono e poi trullallero trullallà. Intanto portano a casa un'elezione probabilmente, quindi una delle prebende, e poi si vedrà. Come si vede, parlano per sé, non per il paese, per gli elettori. Niente. Vabbè, Vincino, hai capito allora in tutto questo periodo? No. Ancora, no, ragazzi, no. Siamo... si scindono, l'unica cosa che ottengono, levano quel 2-3% perché di più non prendono al PD. No? Al PD, però poi c'è Pisapia, c'è Pisapia. Pisapia altro 2-3%, altro 2-3%. Ma sì, perché fai 2-3, rimetti insieme non hai secondo capito. Un sondaggio di Euromedia, quindi della Ghisleri, che è una delle più brave, pubblicato ieri da Affari Italiani, Renzi vince a man bassa se fanno le primarie. Emiliano non va oltre il 3%, questo è un dato di Euromedia. Il 3%? Sì. Morì dalla Puglia, chi lo conosce Emiliano? Emiliano poi insomma, poi questa storia che fa il magistrato, fa il politico, non leva, ecco una cosa, come dire, una prepotenza. Una prepotenza. Guarda, il Renziano Vincino. Il ritorno quasi. Ricordiamo che Vincino amava Renzi, cioè lo considerava stupendo, straordinario, incredibile. Ci ha fatto il libro La cavalcata di Renzi. Io ho cavalcato la cavalcata e via. E poi dopo dicevo un disastro. È così, Perrino. Sono gli italiani. Gli italiani, prima, non so chi l'ha detto, l'ha detto Veltroni. Oddio, mi dispiace un po' citare Veltroni, non so se, però l'ha detto tutti a Edi. Prima tutti a Edi, tutti i cantori, tutti, e dopo tutti, ma no, dagli addosso, farabutto, disgraziato. Io cito sempre Flaiano: la situazione è grave, ma non seria in Italia. È un po' così. E Renzi comunque alla fine lo rimpiangeremo, perché comunque è l'uomo che sta mostrando di avere una sua coerenza, una sua logica, una spina dorsale, una capacità di leadership. Gli altri da speranza in giù, finché c'è vita c'è speranza, ma mi sa che non vanno da nessuna parte. Sono un po' in difficoltà. Sì. Più renziano di me questo qua. È più renziano di me. No, io non sono mai stato renziano, l'ho anche contrastato con il mio giornale, però bisogna dire la verità, è questo. Cioè, dove vanno Speranza e compagni? Qual è il loro progetto? Mentre Renzi un progetto l'ha manifestato e in parte l'ha realizzato, piaccia o no. In tutto questo ma mi chiedono perché Vincino parla a bassa voce. No, è che fuma, non è che parla a bassa voce, è che fuma. E quindi, a quest'ora già fuma? No. C'è un calo, me l'hanno levato i 5 Stelle la voce. Sì, questo attacco ai giornalisti, è un complotto dei 5 Stelle, tu di così. No, allora, avete capito perché i tassisti, attenzione che ci seguono tantissimi tassisti, categoria che noi amiamo, però insomma non esente da critiche, c'è questa cosa per cui hanno rinviato di un anno il regolamento su i noleggiatori con conducente, quindi i tassisti hanno scioperato dicendo questo è un favore a Uber, hanno bloccato un po'. Sciopero selvaggio, dai, insomma, ecco, Perrino, come lo dobbiamo chiamare. Sì. Sono fenomeni, diciamo, un po' luddistici, no? Vogliono rompere le macchine, le nuove macchine industriali, che sono le app di Uber, e sappiamo che i tassisti sono una potenza. Se ne accorse anche Bersani quando voleva fare le liberalizzazioni e sui tassisti dovette fermarsi. Questi paralizzano le città. Attenzione. Un po' corporativi, anche se ci ascoltano, pazienza, la verità. No. Quando Angelo Maria Perrino prenderà un taxi questa mattina, allora vediamo di descriverlo bene. Vediamo di descriverlo. Ha dei capelli bianchi. Vincino anche, vuoi dire qualcosa contro i tassisti? Ha ragione lui, Bersani era stato forte con i tassisti. No. Secondo me, vedi, secondo me a Renzi manca anche un po' di Bersani, diciamo. Manca un po' di Bersani sulle piccole cose, là, sulle grandi cose, sui tassisti, tutte queste cose qua, no? Andava bene, cioè aveva una sua coerenza riformatrice che in alcune cose è mancata totalmente al patchwork di Renzi. insomma, sì, no? Pensate che in America Obama è scomparso, si è ritirato, fa altro, e noi ancora parliamo di Bersani, che ministro nel primo governo Prodi, dunque parliamo del 2006. Beh, finalmente però adesso c'è un nuovo che avanza, Silvio Berlusconi. Del 96. È il nuovo che avanza, Silvio Berlusconi, per esempio, ha detto ai suoi appunto che ha trovato questo professore che ha una tecnica innovativa per ringiovanire il volto. E quindi vuol dire che proprio basta, si sente in campagna elettorale. Situazione grave ma non seria. Esatto. Però guarda che nella storia, poi i francesi per dire ripresero De Gaulle dopo 20 anni che era in pensione. Ma almeno si riposa un po', si rifà tutto, non solo il viso. Ragazzi, pensiamo alle cose belle, tipo che a Imperia ci sono 11 gradi, come ci dice un ascoltatore. A Monte Carlo la nostra François, Marie-Françoise, ci dice che ci sono 10 gradi a Monte Carlo. Adesso parlo dal Salento e siamo a 12-13 gradi. Alla fine aspetti a dirlo. È la sorpresa finale. 12 gradi in Salento. Questo ci dice. Ceglie Messapica, il paese della buona cucina. Ah, cioè sei lì a Magnà, sei lì in vacanza, sei lì... Sì. Sì, sto lavorando. Mentre noi qua abbiamo a che fare con le palme, con le cose per cui i dibattitoni a Milano. Qui c'è l'ulivo che è stato un po' come le palme di Vincino, l'ulivo soffre di questo di questa xylella. Sì. Esatto. E Emiliano pensa a Roma, no? Contestato qui in Puglia perché si distranto troppo. Vincino, ma le palme come stanno in tutto questo? Le due rimaste? Le due benissimo. Benissimo. Il busto di Andreotti in marmo come sta? Quello stupendo, quello guarda ti dico, i prossimi giorni parlerà. Ti annuncio una sorpresa, guarda. Cosa dirà? Sarà il primo che manderà. Stiamo organizzando insieme io e lui un'azione scenica. Un'azione scenica. Sai Perrino che c'ha il busto di marmo di Andreotti sul terrazzo? Sì. Ah, questo non lo sapevo. Forse dei tempi di cuore, vero? Del male. Giusto. È una storia bellissima. È rimasto a lui il busto in marmo. Se vuoi ti faccio mandare una foto, è fantastico. Che meraviglia. Lui va lì, Andreotti lo coccola, lo tocca, perché poi sono tutti giorni così. Ti mando la foto animata dell'azione che ho avuto. Ha detto che ogni tanto lacrima, no, come, come la Madonna. C'è anche la gobba? C'ha la gobba? C'è tutto, gobba, occhiali, cose, sa tutto. Le orecchie quelle lunghe, sa tutto. E che dice nel proporzionale? Lui è per il proporzionale? Aspettate, un giorno da te. Tra un giorno dirà. Vabbè, dai, chiudiamo con il nostro premio, il premio Giachetti anche oggi. Potete assegnarlo. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Perrino, a chi assegniamo il premio Giachetti per te? Ma io direi a qualcuno della minoranza del PD, dai, assegniamolo. Qualcuno a caso. Sì, direi Speranza, mi sembra. Speranza, va bene. Vincino, a chi il premio Giachetti? Allora lo diamo a qualcuno della maggioranza, per par condicio, così ricomponiamo. Al trafficante, la Lolli. LOL, chi è Lolli? Lotti, il trafficante, che vuol dire? No, per dire che traffica, briga. Il padre è accusato di aver trafficato influenze con Lotti. Al trafficante, sì. Non lo so, alla vittima del presunto traffico di influenze, va bene, al vaccinatore Lotti, ok. Vi devo salutare, grazie a Vincino, grazie a Perrino, ricordate affariitaliani.it, un abbraccio. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Abbigliamento di Alino, togone da magistrato, parruccone ricavato da lana da materasso e bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. Signori, sono le 7:17 minuti e 30 secondi, 31, 32, 33, qui a Radio 24, è lo spazio dedicato alla rassegna stampa di 24 mattino. Ed è venerdì, caro Peter Bescapè, caro Lorenzo Nespoli, è venerdì. Allora andiamo a leggere questi benedetti giornali. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Per la precisione, venerdì 17 febbraio, non siate superstiziosi. Primo, perché essere superstiziosi porta sfiga, e secondo, perché è al limite il venerdì 13 il problema, non tanto il venerdì 17, se proprio vogliamo il copyright originale. Allora, i titoli, il Sole 24 Ore, corre il Made in Italy, attivo record nel 2016, questo è il titolo, col surplus commerciale annuo che arriva a 51,6 miliardi, è il titolo principale. Poi la politica, il Corriere della Sera ha un'intervista a Matteo Renzi, appello di Renzi, non andatevene, evitiamo scissioni, il congresso va fatto, decida la nostra gente, due pagine di intervista, tra poco le vedremo. Per Repubblica, scissione PD, l'ultima mediazione. Mentre molti giornali si concentrano sul papà di Renzi, Il Giorno, indagato il padre di Renzi. Anche il Fatto Quotidiano, il babbo di Renzi, indagato a Roma. Romeo scrisse 30.000 euro a T, T puntato, si chiama Tiziano, e quindi il sospetto è che questa T possa essere lui. Tra l'altro, Romeo citato non è il Romeo di Roma, ma è l'imprenditore Alfredo Romeo. Qua, ragazzi, è tutto un intreccio di nomi e cognomi. Indagato il papà di Renzi è il titolo anche del giornale. Indagato Babbo Renzi è il titolo della Verità. Mentre La Stampa, la battaglia dei tassisti per fermare Uber, scontro da 2 miliardi. Questo è il titolo principale. Vedremo altre aperture. Intanto voglio subito concentrarmi sulla lettura dei quotidiani. Voglio tornare per l'ennesimo giorno consecutivo sulla vicenda di Lavagna, con il ragazzo che si è suicidato dopo il controllo della Guardia di Finanza. Perché lo faccio? Perché Il Giorno intervista, è forse l'articolo più interessante, intervista il comandante della Guardia di Finanza, generale Renzo Nisi. Siamo a Genova. È colui che di fatto, in collaborazione con la madre di Giovanni, di Joe, ha fatto il controllo. E parla, intervistato da Alessandro Belardetti, il generale, e dice fin dal titolo: quell'azione antidroga non la farei più. È l'angoscia del generale che racconta: potendo tornare indietro avrei rifatto quel blitz? Umanamente dico di no. Col senno di poi immaginerei sicuramente un intervento diverso, un supporto psicologico presente in casa, penserei a una soluzione alternativa. Ci sto ragionando tutti i giorni, conoscendo l'esito tragico di quel servizio, ora dico che era meglio non farlo. Sono queste le valutazioni pesanti come macigni del generale Renzo Nisi, comandante provinciale della Guardia di Finanza a Genova, che quella perquisizione l'ha gestita. E in quel blitz ha perso la vita il sedicenne Giovanni Bianchi. Generale, giudicando da uomo, non rifarebbe quel blitz, ma pensando da finanziere? Beh, se un cittadino ci chiede aiuto, dobbiamo aiutarlo nel miglior modo possibile. Nel caso del ragazzino siamo intervenuti con tutte le cautele del caso, predisponendo una squadra speciale composta da padri di famiglia che sapessero bene come approcciare un giovane. Cosa è successo in quella casa? Stava parlando coi suoi familiari, era un classico rimprovero da genitori, non stavano assolutamente litigando in modo acceso, l'argomento era la droga. E poi risponde anche alla domanda: sente il peso della morte di questo ragazzino? Abbiamo messo in campo la migliore esperienza, risponde il generale Nisi. Rispettato le procedure, il risultato non ci ha dato ragione, non siamo tranquilli. Ci sentiamo profondamente colpiti e dispiaciuti. La madre venne da noi in caserma chiedendoci aiuto, dicendo che il figlio aveva manifestato repentinamente problemi nella vita di tutti i giorni. Lei temeva facesse uso di stupefacenti, aveva cattive frequentazioni, andava male a scuola, mentre prima era uno dei migliori della classe. Allora, la prima occasione utile, dovevamo capire se usava o meno droghe. All'uscita da scuola, alle 13.30, una pattuglia in borghese, d'accordo con la mamma, lo ha fermato. Lui ha risposto tranquillamente alle nostre domande, ha detto anche una scusa molto fantasiosa, l'hashish l'ho trovato nel bagno della stazione. Ma e che spiegazione si è dato lei del gesto estremo, improvviso? Non lo so, me lo chiedo tutti i giorni, soprattutto al funerale, quando ho visto l'enorme partecipazione per l'addio. Quel ragazzo era inserito ovunque, aveva amici, conoscenti, compagni di squadra. Non si spiega, è imponderabile. Così racconta il generale della Guardia di Finanza che ha gestito questo blitz. Repubblica va a sentire i ragazzi, i compagni, gli amici di Joe. È un racconto, quello che fa Stefano Origone a pagina 16 di Repubblica, di ragazzi che fanno fatica a parlare con le famiglie, insomma un classico degli adolescenti di questa età, di sedicenni, ragazzi che praticamente dicono confidarsi con i genitori mai e poi mai, agli amici dico tutto, ma in famiglia mangio, dormo e se mi chiedono di più mi chiudo in camera. È uno spaccato, insomma, di esperienze che tutti i genitori, non tutti per la verità, molti hanno anche dei rapporti straordinari con i figli, questo è bene, ma molti genitori riscontrano nel rapporto con gli adolescenti in un'età molto, molto difficile. In ogni caso, questa è la vicenda che da giorni tiene banco. Invece ieri c'è stata una nuova protesta, nuova nel senso che di tanto in tanto succede, dei tassisti. So che molti tassisti ci amano, ci seguono, eccoci qua. E oggi si parla molto di voi, con tagli diversi, con critiche, più critiche per la verità, soprattutto per la decisione di fare uno sciopero improvviso, uno sciopero selvaggio, come è stato definito anche dal Garante. Che cosa è successo? È successo che c'è una norma nel decreto mille proroghe che è stata molto contestata dai tassisti. Questa norma prevede praticamente che si dilati di un anno, fino al 31 dicembre 2017, il tempo per emanare un decreto che contiene le norme contro l'esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggiatori con conducenti. Le disposizioni dovrebbero prevedere il divieto di sosta in posteggi nei comuni ove si è esercitato il servizio taxi da parte di noleggiatori con conducente e anche l'obbligo di fare le prenotazioni in rimessa, quindi la sede del vettore e la rimessa devono essere situate nel comune che rilascia l'autorizzazione. Queste normative che riguardano i noleggiatori con conducente, però appunto verranno, ci sarà tempo un altro anno, è stato dilazionato nel decreto mille proroghe la possibilità di mettere a norma queste cose. Allora i tassisti si sono infuriati, hanno pensato che questo sia un modo per favorire i noleggiatori con conducenti contro di loro. Rinviati i divieti per abusivi e noleggi, la rivolta dei taxi manda in tilt le città. Ci sono le interviste, ci sono i commenti, c'è anche Luciano Capone che se ne occupa sul Foglio e scrive sotto il titolo "Un paese ostaggio dei poteri di veto". Scrive Capone in prima pagina sul Foglio: a differenza di quello che si è portati a pensare, l'emendamento cosiddetto pro Uber nel decreto mille proroghe non è affatto una liberalizzazione, non è neppure pro Uber, è una norma che lascia le cose come stanno. Da quasi 10 anni il governo dovrebbe approvare un piano per regolare il trasporto con conducente che viene di anno in anno rimandato. In attesa del piano è sempre stata sospesa la norma che imporrebbe ai noleggiatori con conducente di non sostare sul suolo pubblico fuori dal comune che ha concesso la licenza. In pratica dovrebbero ogni volta tornare in autorimessa, un obbligo che limita la concorrenza, dice al Foglio Linda Lanzillotta, senatrice autrice dell'emendamento. Il piano è stato ulteriormente rinviato a fine 2017. Tra l'altro Linda Lanzillotta viene intervistata anche da Repubblica e dice: un attacco violento e personale nei miei confronti, anche sessista, ma non mi fermo. L'emendamento da me proposto sospende le norme restrittive sul noleggio con conducente fino al 31 dicembre 2017. E dice Linda Lanzillotta: la concorrenza fa bene agli utenti. L'Italia è il paese europeo con le tariffe più alte e il rapporto più basso tra numero di utenti e dei taxi. Non c'è nessun atteggiamento persecutorio né penalizzante nei confronti dei tassisti. Questo dice Linda Lanzillotta. La protesta però c'è, le foto di tutti i tassisti incolonnati che bloccano e fanno sciopero, le trovate ovunque. Secondo Paolo Baroni si tratta di una fetta di mercato mai regolato e mal regolato che vale 2 miliardi di euro. Questo sulla Stampa a pagina 3. Vedremo alla prossima protesta. In tutto questo arrivano i tornelli a scuola, cari liceali. Pordenone, all'Istituto Tecnico Industriale Kennedy sono state spese, racconta Lorenzo Padovan sulla Stampa, pagina 17, 125.000 euro per la sicurezza, mettendo i tornelli al liceo. Arriveranno, istituto blindato con i tornelli, che controlleranno i 1.600 studenti. Sono 14 tornelli, badge per l'entrata, sistema che registrerà l'ingresso, annoterà la presenza sul registro elettronico eliminando l'appello in classe. I genitori in visita o colloquio con i docenti dovranno digitare le medesime credenziali che già usano per consultare proprio il registro elettronico. Insomma, i tornelli per controllare chi entra, chi esce dalla scuola, chi è assente e chi è presente. Immaginate subito le polemiche, i sindacati che protestano. Quei soldi, cioè 125.000 euro, potevano essere usati meglio per i laboratori, per esempio. C'è sempre qualcos'altro. E le proteste con la dirigente scolastica Antonietta Zancanna, che si difende e dice: pensiamo che i tornelli siano un grande passo in direzione della massima sicurezza a scuola. Totale condivisione con docenti, ragazzi e genitori nella fase progettuale e realizzativa. E riguardo all'utilizzo dei soldi in maniera alternativa, dice: la nostra scuola, tra le più grandi della provincia, dispone anche di materiale molto sofisticato al suo interno. Non abbiamo esitato a aumentare il livello di sicurezza a scuola. Tornelli che arrivano a Pordenone, tornelli che forse scompaiono. E questo è l'articolo che mi fa della giornata. Nino Materi racconta che lo scenario è il solito. L'Università di Bologna, quella dove la biblioteca è anche a uso e consumo anche di spacciatori, pancabestie, eccetera, per cui il rettore ha messo i tornelli. Pare, racconta il giornale, che questi tornelli verranno tolti. Il rettore si piega ai violenti, via i tornelli dalla biblioteca. Questo almeno è il titolo del giornale a pagina 16. Dopo il contestato blitz della polizia, il senato accademico cede alle pressioni del ministro Fedeli, vincono i black bloc, questo scrive il giornale. Martedì quasi certamente si deciderà di riaprire la biblioteca senza più installare i famigerati tornelli. Lo rivela il giornale un autorevole membro del Senato accademico, che martedì ascolterà la relazione del rettore Francesco Ubertini sugli incresciosi fatti che da 4 mesi stanno avvelenando l'Università di Bologna, e pare che la linea sia questa, e cioè togliere i tornelli. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milan, il radicchio Trevisan dell'informazione. Buono, buono, buono. Allora, cari ascoltatori, dobbiamo parlare della scissione del PD, telenovela giunta alla puntata numero 7328. Il titolo di oggi della puntata è scissione al 95%. 95%, ci siamo. Al 95%, poi si vedrà. Oggi Matteo Renzi, ex premier e segretario del PD, rilascia un'intervista al Corriere della Sera di 2 pagine, pagina 2 e 3, intervistato da Aldo Cazzullo. Il tentativo è quello estremo di cercare di evitare questa scissione. Titolo: basta pretesti, alibi, non andate, discutiamo. Il PD, dice Renzi, è fatto da milioni di elettori, migliaia di iscritti, appartiene al popolo e non ai segretari. Faccio un appello ai dirigenti: bloccate le macchine della divisione, non andatevene, venite, partecipate. Le porte sono aperte, nessuno caccia nessuno. ma un partito democratico non può andare avanti a colpi di ricatti. Apriamo le sedi dei circoli e discutiamo e torniamo a parlare d'Italia. Mentre voi vi dilaniate, chiede Cazzullo, il mondo va da un'altra parte. Non crede che la scissione spalancherebbe le porte alla destra o a Grillo? Appunto, risponde Renzi, in America c'è Trump, l'Europa rischia di sgretolarsi se vince la Le Pen, i grillini sono alti nei sondaggi nonostante gli imbarazzanti risultati di Roma, Berlusconi e Salvini sono pronti a riprendersi la scena. Domando, chi va dai militanti della festa dell'unità a spiegare perché si deve rompere il PD? Io voglio evitare qualsiasi scissione. Se la minoranza mi dice o congresso o scissione, io dico congresso. Ma se dopo che ho detto congresso, loro dicono comunque scissione, il dubbio è che si voglia comunque rompere. Poi, quando si va a votare? E chi lo sa, la data del voto interessa solo agli addetti ai lavori. La gente vorrebbe sapere cosa pensiamo di tasse, burocrazia, lavoro, infrastrutture, innovazione. Non è interessata al quando, ma ai contenuti. Non sarò io a decidere la data, non sono più il presidente del Consiglio. E Gentiloni, perché ha fretta di mandarlo a casa? Ma di cosa parla, risponde Renzi, mandarlo a casa? Ma perché queste banalità? Il governo ha una grande responsabilità su tutto gestire gli eventi internazionali. E poi, vabbè, insomma, sono due pagine di intervista, parla anche di Emiliano, Michele ne dice tante, sbaglia sull'Ilva, ma Michele è così, gli voglio bene anche per questo. È simpatico, non D'Alema, che nutre nei miei confronti un rancore personale evidente, ma non voglio più polemiche. Questo Renzi che risponde alla fine anche a una domanda su l'indagine al padre indagato per traffico di influenze nell'inchiesta Consip che coinvolge Luca Lotti. Mio padre, risponde Renzi, è già passato da una vicenda analoga 3 anni fa. Dopo 20 mesi è stato archiviato. Spero finisca nello stesso modo. In ogni caso, da uomo delle istituzioni, dico, come allora, che la mia prima parola è di fiducia totale nella magistratura italiana e di rispetto per il lavoro dei giudici. Guai a chi fa polemica. Gli inquirenti hanno il dovere di verificare e fanno bene a farlo. E, in tutto, al padre ci arriveremo, c'è anche altre interviste, Franceschini anche, ministro della cultura, intervistato da Repubblica. Una rottura adesso è incomprensibile, le primarie slittino fino a maggio. Anche Franceschini, intervistato da Goffredo De Marchis, dice: se ci capiterà questa disgrazia della scissione, cosa scriveranno tra 10 anni gli storici? È successo perché alcuni volevano fare il congresso a settembre e altri ad aprile? Sarebbe incomprensibile, ma per il nostro popolo lo è anche ora. E sicuramente Franceschini certifica in nero su bianco il fatto che voi avete capito perché nel caso si scindono. Cioè, avete capito? La questione è questa, cioè fare un congresso 2 mesi prima, 2 mesi dopo, non farlo. Cioè, per questo si rompe un partito? Vabbè. Comunque, dicevamo, il titolo di oggi è «Siamo fuori al 95%». Questa è la frase attribuita a Bersani, a Speranza, a quelli della cosiddetta minoranza. Il padre di Renzi, in tutto, torniamo a questo, è appunto indagato, è sotto inchiesta. Lui dice «Sono trasparente, non ho fatto nulla». Come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 9 del Corriere della Sera, è accusato di aver avuto il ruolo di facilitatore per la concessione di appalti all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo ed è accusato di averlo fatto in concorso con Carlo Russo, amico di famiglia, titolare di alcune società scandicci. Tiziano Renzi è indagato da Roma per traffico di influenze. Il procuratore Paolo Jelo e il sostituto Palazzi lo interrogheranno la prossima settimana. Tra l'altro, Jelo è lo stesso che indaga sulla questione Raggi e quindi anche sull'altro Romeo, Salvatore Romeo. Attenzione, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Alfredo Romeo, Babbo Renzi, Salvatore Romeo, Virginia Raggi. Insomma, il cognome Romeo non porta granché bene in questo momento. E quindi da un Romeo all'altro, l'ira di Raggi per la terza polizza. Ebbene sì, si è scoperto che Salvatore Romeo ex capo dello staff di Virginia Raggi, ha intestato una terza polizza, sempre per motivi di affetto, a Virginia Raggi, al sindaco di Roma, a insaputa della Raggi, e lo ha fatto quando si è saputo che la Raggi era indagata. Qui, a questo punto, il sindaco di Roma non ci ha visto più. Tanto che ci sono alcuni retroscena gustosi su quello che pensa a questo punto il primo cittadino di Roma. Leggete qui sulla Stampa, pagina 7. Raggi e i dubbi su Romeo. Ma se fosse un infiltrato? E qui già si prevede l'ipotesi di un complottone. Infiltrato di chi? Infiltrato di cosa? Infiltrato perché? L'amicizia, l'affetto, la fiducia vengono frantumati al mattino, scrive Ilario Lombardo sulla Stampa. Lasciano il campo ad altri sentimenti, incredulità, paura, sospetto. E se fosse un infiltrato, la parola rimbalza e diventa paranoia di sguardo in sguardo tra la sindaca e il suo staff. La terza polizza di Salvatore Romeo sottoscritta con beneficiaria Virginia Raggi è un mattone che si schianta sulle fragili convinzioni rimaste alla sindaca. Non può essere semplicemente un caso. Continua a dire ai suoi Virginia Raggi, è inaccettabile, poi dice pubblicamente, che il dottor Romeo abbia fatto una cosa del genere. A questo punto con i miei avvocati presenterò un esposto in procura per tutelarmi. Solo esposto in procura? Salto sul Fatto Quotidiano perché c'è un altro retroscena che, oltre alla querela, aggiunge un particolare davvero incredibile se confermato. Valeria Pacelli, a pagina 6 del Fatto Quotidiano, terza polizza Raggi di Romeo, e lei infuriata dice: lo querelo e attenzione, firmo un TSO. Io vi giuro, all'inizio mi è venuto da ridere quando l'ho visto. Cioè, il trattamento sanitario obbligatorio per legge è il sindaco a firmarlo, ovviamente sentito il parere di psichiatri della ASL, cioè, ma la firma finale spetta al sindaco. E allora eccola qua la minaccia, secondo alcuni, di Virginia Raggi: non solo farò una querela, ma pure un TSO, me lo consentono i poteri da sindaco. Certo, scrive il Fatto, forse si tratta di ironia, ma è molto seria per quel che riguarda le conseguenze di questa faccenda, e oggi presenterà una querela in procura. Quindi, diciamo, il TSO, così, derubrichiamola a battuta. A proposito di TSO, siamo con Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno caro Alessandro, ti sento sarcastico, mi fa piacere. Come sta quella camicia bianca che ti si stringe attorno alle spalle sempre più stretta? Tutto bene? Senti, io ti avevo avvisato, parliamo di cose serie, io ti avevo avvisato già da giorni di studiare il mille proroghe. Sì. Ecco, hai visto tutto questo casino, queste proteste dei tassisti, vengono giù dal mille proroghe, ma tante cose sono nel mille proroghe, quindi approfitta di questa giornata e anche del fine settimana per studiare il mille proroghe. Puoi cominciare da norme e tributi, oggi su Sole 24 Ore, un pratico tabellone con le novità che arrivano. Tra l'altro, qui Radio Fisco, occhio perché i dati IVA li dovete comunicare a semestre, però vi hanno rimesso l'intrastat. Tu non hai capito, io poco, però ti assicuro che è una discreta seccatura. Comunque, tutti i dettagli, mi raccomando, perché mille parole va saputo bene. È in programma e guarda che interrogo. Oh, ma molte altre cose oggi, giornatona decisiva per la pubblica amministrazione, lo sai? Sì? Sì, perché stiamo aspettando il varo dei decreti sulle partecipate, ad esempio, sai che bisognerebbe sempre snellire le partecipate, e poi sui furbetti del cartellino, come li chiamano i giornali, insomma sull'assenteismo. Questo e molto altro proprio nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, caro Alessandro Milan. Più in là, poi sfogliando, ti invito a meditare anche sulle pagine di finanza che tu leggerai avidamente, bravo, così come avidamente domani, a proposito di risparmio, leggerai Plus con il Sole 24 Ore. Ma ti invito a meditare perché, tra le altre cose, oltre a questa trattativa tra Sky e Mediaset su Premium, di cui diamo delle indicazioni importanti, ma poi c'è anche un signore che è molto conosciuto nell'ambiente del calcio, si chiama Zamparini, deve 99 milioni al fisco. Non so se la cosa si accomuna a lui in qualche modo, se anche lui farà una rottamazione delle cartelle o qualcosa del genere, però è tutto spiegato nelle pagine di Finanza di oggi. Oh, mi raccomando di non trascurare le pagine di Imprese e Territori, oggi questa notizia sull'export che è andato molto bene a dicembre, più 5,7 a dicembre. E allora, con questa che è una buona notizia, io ti faccio naturalmente i miei migliori auguri a te. Auguri per una serena domenica sera, proprio serena, serenissima domenica sera, quando appunto la tua squadra omonima affronterà in casa la Fiorentina. Ebbene sì. E vediamo un po' se vince il migliore. Caro Alessandro, speriamo di no. Come disse il grande Paron Nereo Rocco. Allora, caro Alessandro, cari ascoltatori, tutto ciò premesso. Buona domenica e traffico! Alessandro Milan, il Bob Marley dell'informazione. Get up, stand up. Stand up for your right. Già. Get up, stand up. Stand up for your right. Ora io dovrei parlare del presidente della regione d'Abruzzo, vi rendete conto? Che faccio, Peter? Questo clima e queste note in realtà però ci portano a parlare delle palme a Milano. No ragazzi, delle palme parliamo tra un attimo. Le palme, la polemica sulle palme. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light. Vi vedo nei vostri abitacoli, nelle vostre lattine di lamiera che cantate, che vi esibite. Vabbè dai, su Peter Tosh possiamo anche sfumare, purtroppo. Allora dicevo, il presidente della regione d'Abruzzo, anche lui è indagato, Luciano D'Alfonso, appalti blitz in regione Abruzzo, indagato il presidente D'Alfonso, giornata che regala sul fronte giudiziario qualche novità, proprio nel giorno in cui scatta il 25enne di Mani Pulite, tra l'altro parleremo anche di questo più avanti. Comunque la replica di D'Alfonso, io sono estraneo a questa vicenda. In tutto questo nella politica si scalda anche Berlusconi. Attenzione, Berlusconi, Libero dice che avrebbe confidato ai suoi: ho conosciuto un professore che ha una tecnica innovativa per ringiovanire il viso. Questo è un segnale secondo voi secondario? Invece, se Berlusconi, come scrive Libero, pensa a un nuovo lifting, significa che la campagna elettorale è secondo lui in arrivo. E allora Berlusconi tenta un altro lifting per puntare al 20%. Titolo di Libero: Silvio si rifà il look in vista delle elezioni. E va bene. In tutto questo, a proposito di Silvio, secondo Libero c'è il metodo Silvio nei confronti di Donald Trump. Se ci spostiamo in America, c'è il problema di un Trump al contrattacco nei confronti dei mezzi di informazione, degli 007, della CIA. Sistemerò il caos che ho ereditato, ha attaccato la stampa definita bugiarda, ha attaccato le gole profonde nella CIA. Vuole normalizzare i servizi mettendo a capo un suo fedelissimo. Questo racconta Repubblica. Insomma, c'è un po' di maretta perché Trump teme, in realtà tutto il mondo lo attende, anch'io per primo sono certo che arriverà, il primo dossier avvelenato per cercare di minare la sua presidenza e abbatterlo. Mi sembra abbastanza chiaro che si va in quella direzione, uno scontro di poteri non indifferente tra il potere politico e il potere legato ai servizi segreti in America. E qui invece si discute delle palme. Signori, cioè io lo ribadisco per la seconda volta, l'ho detto anche alle 6:30, la discussione sulle palme a Milano, a parte che le palme sono straordinarie, è una delle piante che amo di più e come ho già detto ne metterei una nel mio letto, ne me la metterei nella vasca da bagno, nella doccia, sono adorabili, sono fantastiche le palme, sono splendide. La polemica, la discussione sulle palme, che farebbero troppa Africa, da qui qualcuno ci aggiunge l'Africa, quindi gli migranti, mamma mia, Kim Jong-un, ho detto, se Kim Jong-un ha un missile per arrivare fino in Italia e farci implodere noi e tutta la nostra discussione delle palme, viva caro leader nordcoreano, da Pyongyang colpiscici, siamo qui, a tua disposizione. Adesso ci tocca romperci le palme, titolo di una pagina di Libero. La disfida delle palme, titolo un po' più sobrio come si conviene per una pagina del Corriere della Sera. Gente che si fa i selfie, gente che ironizza sui cammelli, i banani, l'Africa, le palme. Kim Jong-un. Non c'è un coro, chi dovremmo prepararlo? Quando c'è qualcosa che ci dà fastidio, il dibattito che c'è troppo in Italia, noi facciamo un bel coro tifando un missile termonucleare di Kim Jong-un su di noi. Allora, vi ricordo anche che c'è una bella ricerca su Repubblica. Federica Cravero racconta di questo studio europeo: avere un figlio rende felici i papà e le mamme, non qui da noi in Italia. Racconta questo studio che è stato fatto da Letizia Mencarini, professore associato di demografia alla Bocconi. Chiedi a una donna italiana se è felice di avere un figlio. Dirà di sì, certo, ma prova a chiederle se è più o meno felice di quando il figlio non era ancora nato. Vacillerà. E alla fine ammetterà di esserlo un po' meno di prima. Nessuna tragedia, è solo una sensazione vagamente negativa cucita addosso al ruolo di madre che suggerisce di pensarci bene prima di rimanere incinta un'altra volta, tant'è che il tasso di fecondità si ferma a 1,4 figli. Alle stesse domande invece un padre risponderà che dopo il primo scossone avvertito all'arrivo del pargolo, il suo livello di felicità è tornato alla fine tale quale a prima. Ecco allora l'inizio di questa ricerca, poi tutta approfondita, che riguarda anche il welfare se funziona, non funziona, i confronti con gli altri paesi, è riassunta così: avere un figlio rende felici i papà e le mamme, non qui da noi. Questo è il titolo di Repubblica, che faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook, grazie a Lorenzo Nespoli che balla sempre al ritmo di Bob Marley, ma va bene. Oggi è venerdì 17, è il giorno della giornata nazionale del micio in casa. Zen. Oggi mi guardava un po' così. Il giornale dedica una pagina a questo. Magico, elegante, anarchico, il gatto fa festa di venerdì 17. Anche Libero ha dedicato una pagina a questo. Il micio in casa. Mentre invece devo segnalare che Anna Maria Franzoni è stata condannata, delitto di cogne, ma condannata in sede civile in questo caso, dopo la condanna penale per l'uccisione del figlio Samuele, condannata a pagare l'avvocato Carlo Taormina, suo ex avvocato, 275.000 euro di arretrati più interessi eccetera, un conto che sale fino a 400.000 euro. Condannata Anna Maria Franzoni. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. C'è una pagina sul Corriere della Sera dedicata in Inghilterra da Fabio Cavalera al fatto che gli inglesi non rispettano più la coda all'inglese. Gli inglesi spintonano quando arrivano gli autobus. Gli inglesi cercano di entrare come dei trogloditi, come tutti gli altri, come noi italiani facciamo da 45 anni circa. Addio vecchia coda all'inglese. Ma chi se ne frega!